18 luglio del 2018, anche per questa sera alle 21.07 inizia prove tecniche di trasmissione. Ormai appuntamento consolidato del mercoledì sera dal 1992. Quindi questo è il 26esimo anno di vita di questo spazio radiofonico. www.ondarossa.info è il sito internet per usufruire e del nostro streaming. Per chi volesse, naturalmente c'è sempre il telefono, lo storico 0649 1750. Sul sito domani comparirà la playlist del podcast, come comparirà anche sulla pagina Facebook di riferimento prove tecniche di trasmissione /disorder. Naturalmente vado a ricordare sempre la nostra realtà, che è assolutamente autogestita, per cui il conto corrente postale è sempre ben aperto a emolumenti e va intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Revolci 56 00185, Roma. Salutiamo Alessandra qui da Roma, Like and Wake anche lui qui da Roma, Maya dalla lontana Argentina, Nicola dalla Sardegna, anche Carlos Silva ci sta ascoltando da lontano, sia Mexico City, e anche Ginkoso One, se non ricordo male, dal Canada. Ricordo il palinsesto intorno alle 22.30, 25 o'clock. Anche per questa sera si comincia con Stefano Di Serio, Like a Wake. Abbiamo apprezzato questo Crawling Through the Abyss of Pain Symphonic Noise. Mancava l'ultimo tassello, rappresentato da una cover di un brano strafamoso, ossia Set the Controls for the Heart of the Sun, naturalmente dei grandissimi Pink Floyd di inizio carriera. la materia era abbastanza difficile, ossia il, diciamo, il coverizzare Set the Controls for the Heart of the Sun, il capolavoro dei celeberrimi Pink Floyd. Ebbene, Stefano Di Serio, Like a Wake, ci è riuscito in maniera egregia, arrangiando il tutto con, come giustamente viene anche fatto sottolineare per esempio da Carlos Silva, in un modo a tratti medieval e a tratti martial, con un organo maestoso che a un certo punto è entrato e ha dominato il tutto. Un'ottima cover dunque da parte di Like a Wake, estratta da questo Crawling Through the Abyss of Pain Symphonic Noise. Ancora un saluto a Jim Cosowan from Canada. Dunque, da una vecchia conoscenza, Stefano Di Serio, Like a Wake, in attività da molti molti anni, da circa 30 anni e più, andiamo invece a conoscere un artista qui di Roma, una giovane ragazza emergente che si applica per quanto riguarda sempre il dark ambient e dintorni. Sto parlando di Alexia Robbio, che salutiamo qualora sia all'ascolto, che esordisce con un quattro tracce dal nome Emotions, un album, un mini album che si dipana su atmosfere ambient più legate però alla tradizione IDM, per esempio della Warp di Sheffield, etichetta frequentata da Aphex Twin, da Square Pusher, da Outacre e tanti tanti altri. Tracce che hanno un nome che somigliano a cifre, sono delle cifre numeriche in realtà, se leggo bene CH305 eccetera eccetera, e CH è un altro numero. Ci andiamo ad ascoltare dunque questi due passaggi da questo Emotions per Alexia Robbio. ancora Alexia Robbio e salutiamo anche Nicola Locci dalla Sardegna. Stigmate, grosso artista italiano. Ho fatto dunque la conoscenza di questa artista romana, Alexia Robbio, con queste Emotions, questo quattro tracce con il quale esordisce, e speriamo che ci sia un seguito anche imminente. La prima traccia con questi astratti ed evanescenti tappeti evocativi, la seconda ha fatto capolino, una certa pulsazione. E in entrambi i casi ci ha rimandato indietro alla Warp di Sheffield, da un lato i Sea Phil, per chi si ricorda, un grosso gruppo che incideva per questa label, Aphex Twin naturalmente aleggiava in entrambe le composizioni. Quattro tracce, come giustamente sottolineava Alessandra, dal nome che potrebbe essere anche, potrebbero essere delle formule chimiche, chissà, magari un giorno Alexia ce lo spiegherà. Ancora artisti provenienti qui dalla capitale, ne abbiamo un altro, si chiama Medico della Peste, un personaggio diciamo anche bizzarro se vogliamo, un personaggio che si autocostruisce strumenti e che suona con una maschera che potrebbe anche apparire inquietante. Un personaggio che attualmente sembra sia in vacanza in Burundi, pensa un po', ce l'ha detto proprio oggi, e quindi si ascolterà il podcast appena può, giustamente. Allora, noi abbiamo questo CD autoprodotto, una traccia di 28 minuti, una copertina che ci ha rimandato indietro alla epica copertina di In the Court of the Crimson King, per chi se la ricorda, del primo album dei King Crimson, con questo mostro che chiaramente fa riferimento anche alla Villa dei Mostri a Bomarzo, proprio qui nel Lazio. Cominciamo ad ascoltare, insomma, qualche minuto di questa lunga traccia per Il Medico della Peste. salutiamo Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Idealmente facciamo una trasmissione insieme, una sorta di piacevolissima collaborazione a distanza, e di lui e soprattutto di una sua compilation metteremo qualcosa più avanti. Intanto ci siamo ascoltati questo inizio di Medico della Peste, direi dilatato, post rock, ma poi nel proseguimento della traccia che ascolteremo in futuro cambiano le atmosfere. Un saluto dunque in Burundi al Medico della Peste. Ancora Italia, andiamo via da Roma e come al solito il consueto omaggio a Marco Corbelli, sfruttando la monumentale compilation, appunto, è Tribute, 38 tracce con 38 artisti diversi. Questa sera due tracce, la prima è appannaggio di un progetto ovviamente sconosciutissimo, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, si chiama Flash Cult con la K, e ci ascoltiamo una cover di Mr. Nothing. Andiamo avanti, sempre della medesima compilation, loro sono i Trauma, altrettanto sotterranei al pari di Flash Cult. A loro tocca il compito di coverizzare A View Inside, anche questa ovviamente traccia di Marco Corbelli. ripreso il lato più death ambient di Marco Corbelli attraverso questi due artisti, Flash Cult e Trauma. Ricordo una compilation scaricabile in free download attraverso un'etichetta, la Tondoit Dance Moncul, un nome particolare, un undead label che si può visitare e per l'appunto in questo caso scaricare in free download tutta questa lunghissima compilation dedicata a Marco Corbelli. Salutiamo Luciano FM Genovese, anche lui qui di Roma. Nel solco di Atrax Morgue si pone anche lei, She's Press Sorrow, Alice Kundalini, artista proveniente dal Piemonte. E dunque di lei stiamo rivisitando anche il primo lavoro del 2015, questo Room Spring. Umori bellicosi e malsani in questa Herself Denial e poi Chastity, She's Press Sorrow. Don't describe your life. saluto anche a Giulia qui da Roma, entrata mentre stavamo mandando She Spread Sorrow. Abbiamo rispolverato il primo lavoro del 2015, Room Springa, e tutti e tre i lavori di questa artista piemontese sono stati stampati dalla Cold Spring, un'etichetta inglese.